La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Charmanca, charlatanca. Qui al faro vola tutto. Vola il tempo, come anche a terra d'altronde. Volano i fogli, perché appena apro la finestra volano tutti via dal tavolo. Ma per fortuna volano anche le lettere. Volano le vostre lettere che arrivano qui. Vi ricordo che se volete mettervi in contatto con me potete o telefonare all'800 28 11 11, oppure scrivere a laguardiana@radio24.it. Cara Barbara, sono incinta da 5 mesi, primo figlio, e sono terrorizzata dal parto. Ho sentito dei racconti tremendi. Io ho 24 anni, sono in ottima salute e spero che vada tutto bene. Mio marito ha più paura di me, ma non lo ammette, fa il tranquillo e mi mette ancora più in ansia. Credo che alla fine farò il cesareo, perché l'idea di quando il bambino uscirà mi mette troppo panico. Ho paura di non volergli bene dopo, se mi farà soffrire troppo. Ma la cosa peggiore è che mia madre e mia suocera litigano. È cominciata una lotta su chi mi assisterà. Tutte e due insieme non ci vogliono stare perché si detestano. È implicito che dovrò essere io a scegliere, ma è possibile che anche in un momento come quello si debba star dietro alle diatribe familiari? Selene. Eh no, Selene, non è possibile. È uno spreco, è una distrazione di energie e per una cosa del tutto frivola, perché in questa faccenda il tentativo diabolico che stanno facendo suocera e mamma per essere protagonisti al posto tuo è veramente illegittimo. Ora, se tu ti senti più tranquilla facendo il cesareo, per carità, nessuno ti può consigliare il contrario, però per dissipare un po' questo terrore, quello sì che è immotivato, vorrei dirti la mia esperienza col primo figlio. Visto che sei giovane e stai bene, anche io avevo poco più di 20 anni, ero in buona salute come te e mi preparavo al parto naturale, ero già in clinica. Quando ho visto che si avvicinava il momento, ho deciso che non volevo nessuno, che ce l'avrei fatta a patto di non sostenere anche il peso emotivo dei miei parenti, padre compreso, tutti quanti. Così telefono a casa, dico che stavo studiando, perché infatti stavo preparando un esame di latino per l'università, e che li pregavo di non chiamarmi fino al giorno dopo. E da quel momento è cominciata la mia avventura. Ora, sono sicura che morendo vorrei qualcuno vicino, qualcuno che mi voglia bene, ma il parto è una faccenda molto privata. Ci vuole concentrazione. Non devi rendere conto a nessuno. Ci vogliono soltanto le persone che ti aiutano. Così, zitta zitta, con l'ostetrica, faccio questo viaggio. Ovviamente ho i miei dolori, le mie sofferenze, però tutto naturale, tutto normale. E mi hanno aiutato, naturalmente. E faccio una scoperta che non avrei mai immaginato e che nessuno mi aveva detto. Ovvero che fuori dal piagnisteo tradizionale, se va tutto bene, il parto è il più perfetto momento erotico nella vita di una donna. Perché non si raccontano mai le verità carnali del parto? Quando il figlio esce, ma proprio in quel momento lì, il momento che più si teme, non si sente dolore. Si sente come un fiume di fuoco. Ti viene questo senso di potenza e di liberazione. Nessun amante è così intimo e potente, e nessun piacere fisico o spirituale è come quel piacere. Ora, le donne che non lo ammettono, appunto, ripeto, ammesso che vada tutto bene, naturalmente, tutto perfettamente, secondo natura, le donne che non lo ammettono lo hanno dimenticato. Oppure non so perché non se lo dicono. Perché è un piacere, tra l'altro, che ti acqueta per un anno. Ma poveri padri, il bambino è un rivale terribile. Perché il grande piacere e la grande intimità comincia molto prima. Comincia questa società segreta, questa estasi delinquente, quando ancora il bambino abita il corpo della madre. Quindi ti prego, è un'esperienza. Chiudi le orecchie all'amica esperta, alla suocera apprensiva, al marito sbrigativo, al ginecologo indifferente, alle mamme che qualche volta si divertono a spaventare invece che rassicurare. E non badare alle parole, perché le parole sono tutte brutte, quelle che si riferiscono a questo evento. Gravidanza, come pesa. Eppure invece può essere un'occasione di volo. Parto, come vado via. qualcosa che non mi appartiene, che riguarda le mani del dottore. Ecco, cerca di dargli tu un nome. Tutti sono pronti a raccontare delle orripilanti storie di frattaglie rispetto al parto, oppure a farne un'idealizzazione melenza, oppure un evento medico sdrammatizzato, quando invece è drammatico, è un evento drammatico nel senso proprio, ovvero azione pura, nel senso etimologico. Non dar retta a nessuno, e a me meno che agli altri. Di una cosa sono certa, che il parto è l'incommensurabile privato e che niente sarà come ti avevamo detto che sarebbe stato. Mi ha scritto un cavallo. Cara Barbara, so che Alfaro ha molto tempo e ne troverà anche per leggere la mia lettera. Sono un cavallo. Non è una finzione letteraria. Le scrivo personalmente perché ho lo zoccolo fesso. Se ha letto I viaggi di Gulliver, saprà che con lo zoccolo fesso possiamo fare qualunque cosa e meglio di voi. Le scrivo per protestare contro gli animalisti. Mi chiamo Arnoldo e sono un conservatore. E so che dispiacerò a molti, ma voglio dire a questi signori che si battono perché ci vogliono ridare la dignità, come dicono, e far cessare la vergogna del palio di Siena. Ma chi ve l'ha detto che non voglio correre a Siena? Ma io non sogno altro. Ma magari mi volessero. Volete eliminare il palio? Ma siete matti? Ma che idea anti-equina è mai questa? Voi di noi non avete capito proprio niente. Per la mania di tutelarci ci offendete. Voi non capite che abbiamo anche noi le nostre emozioni. Io preferisco morire nella lotta che davanti a un carretto. Voi ci guardate come carne in scatola, ma se aveste gli occhi dell'Ariosto sapreste che abbiamo come voi orgoglio e furia, che non siamo soltanto cieca carne. Perché volete risparmiare a noi i pericoli che voi vi concedete? Il cavaliere sì e il cavallo no? Non si uccidono così anche gli uomini? Io sono per l'agone, per l'entusiasmo, per la mitologia che assume in cielo insieme uomini e bestie. Sono per l'ippogrifo, sono per Orlando. Ah, post scriptum. Nei viaggi di Gulliver, Jonathan Swift ci ammaestra sull'altezza spirituale dei cavalli. La guardiana del faro. Capitaneria di Porto. È in linea un certo Pietro che chiede di Barbara Alberti. Pronto, Pietro? Sì, buongiorno Barbara. Buongiorno. La mia storia è un po', diciamo, travagliata, nel senso, nel suo contesto è molto semplice, perché io conosco questa ragazza a scuola, alle superiori. Diciamo che a 14 anni faccio questo incontro sul treno con lei, mentre andiamo a scuola, ecco. E, però ecco, riusciamo a essere solamente amici, anche perché io non riesco ad andare oltre, diciamo, ecco, a quella che è la semplice amicizia, anche perché lei è molto più alta di me, è già una donna, eccetera. All'età però di 18 anni riesco a fare un passo superiore, a chiederle appunto se vuole diventare la mia ragazza. Riusciamo a stare insieme solo 3 mesi, poi ci perdiamo di vista, io nel frattempo conosco un'altra ragazza, mi sposo dopo 4 anni, però dopo circa 10 anni si rompe anche questo meccanismo e nel frattempo abbiamo avuto una bambina che all'epoca, quando ci siamo divorziati, aveva 5 anni. Dopo un anno che mi sono separato, rincontro casualmente questa ragazza, ma per veramente puro caso, uno dice i casi della vita. Io faccio rappresentante e sono passato da una strada che faccio frequentemente, almeno 2 volte alla settimana, e non avevo mai rincontrato questa ragazza. Parlo della ragazza delle... La sua amata. La mia amata, esatto. Io mi sono detto tra me e me, questa è la strada dove abita lei, e se dovessi incontrarla che faccio? Ma quasi quasi mi fermo. Dopo neanche un minuto l'ho vista mentre lei camminava, e l'ho chiamata col nomignolo con cui a volte a scuola ci si chiama, ci si... Qual era? Era un nome perché diverso, perché a lei non piaceva il suo, ed era Anna. La di primo acchito proprio, io ho detto tutto quello, ho raccontato 20 anni, pardon, della mia vita, e lei mi ha detto quello che aveva fatto lei, e cioè che non si era sposata. A che ci siamo promessi di rivederci, io le ho dato il mio numero, lei l'ha perso, però dopo 3 mesi ci siamo rincontrati di nuovo nelle stesse condizioni. E lei per 3 mesi ha aspettato la telefonata? E io per 3 mesi ho aspettato la telefonata. E ci siamo rivisti la sera, ci siamo rivisti il weekend successivo, finché poi abbiamo fatto l'amore, siamo stati assieme per 4 anni. I primi 2 sono andati benissimo. Però gli ultimi anni è accaduto, non lo so cosa gli è successo. L'episodio è stato che la zia, che è la sorella della mia ex moglie, ha telefonato dicendo vorrei passare a trovare la piccola. Allora ho detto va bene, io al momento ero perplesso perché c'era anche lei. Però questa cosa non gli è piaciuta perché lei comunque... Una volta mi ha chiesto, ma perché tu mantieni questi legami con la tua ex moglie, con la sua famiglia, se tu con lei non hai più niente a che fare, avete divorziato e quant'altro? Io ho detto, guarda, per il bene di mia figlia. Però da quel momento lì lei non ha litigato, lei ha preso e dice, senti, io vado a casa così almeno tu puoi accogliere qui sua zia, eccetera. Però l'ho vista che mi è andata via in malo modo. Per 4 settimane ho fatto fatica a parlargli, però da lì in poi si è rotto qualcosa. E lei cosa pensa? Io sono una persona che, mi ritengo ancora giovane, ho 46 anni, però ho perso un po' la fiducia anche non solo nei suoi confronti, ma nei confronti delle donne in generale, perché... No, scusi Pietro, ma sì. Cosa dice? Abbia pazienza, come le donne in generale. Che c'entro le donne? Che lei è l'uomo in generale, lei non è un uomo in generale, lei è Pietro. E così certo. Questa signorina sarà stata Anna, voglio certo. Dire. Allora voglio dirle questo, guardi Pietro, mi creda. Lei non l'amava e basta, o l'ha amata per un po' e poi non l'ha amata più. Le cose ci vengono date e ci vengono tolte. Io trovo che non sarà già molto bella in tutte le sue... Voglio dire, ha avuto già molte fortune, perché avendo visto la sua donna ideale, comunque ha potuto sperimentarla e ha avuto anche il privilegio di potersene stufare un po', perché tutto sommato lei a questo punto è penso che sia quasi sollevato, perché non ha più paura di perderla. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Cara Barbara, ho 25 anni. Ho lasciato il mio ragazzo perché ho perso la testa per uno di 55, più vecchio di mio padre, che mi ha detto il classico per sempre. E io mi sono sentita, ti parrà ridicolo, sposata con lui. Mi ha fatto balenare un'unione al di là di ogni ostacolo, noi due contro il mondo. Io difatti mi sono messa contro genitori e amici, mentre lui intanto, l'ho scoperto dopo, aveva ricominciato a flirtare con la sua ex moglie che lo aveva mollato da tempo. Si è servito di me per fare ingelosire lei. Il colpo gli è riuscito perché la moglie se l'è ripreso. E lui? Sai, ho scoperto che sono vecchio. Ah, se ne accorge adesso che ha ritrovato la primavera, anche erotica, ahimè, con quell'altra? Si è preso la mia vita per trasformarmi in un'esca per mogli. Iva. È uno dei miei argomenti preferiti, questi amori impossibili, questi amori con grandi differenze d'età. Tu mi dici, sono stata un angelo azzurro al contrario, appunto come il professore, al contrario il professor Urrat, questo vecchio professore che si innamora di Lola, l'artista di cabaret, e ne morirà, sarà frantumato da questo amore, appunto l'angelo azzurro al contrario tu intendi appunto quando invece una ragazza viene frantumata da un uomo d'età. E beh, devo dire che gli esempi storici non mancano, basta pensare alla storia di Camille Claudel e di Rodin, il grande scultore, e la grande scultrice. Si incontrano, lei ha un talento prodigioso, lei è molto giovane, lui è un vecchione. Lui amò questa ragazza e la rase al suolo. Ora, la bellezza di Camille è di quelle che... Si può essere belli, ma poi ci sono bellezze che ti fanno innamorare. Ecco, Camille aveva una di quelle bellezze che fanno innamorare. Ma ancora oggi, se la guardi in una lontana foto, e figuriamoci quando era questa piccola selvaggia di 18 anni, incredibilmente dotata per la scultura, di cui Rodin diventa il maestro amante. Lui si accorge molto presto che questa ragazza non è la sua emula, che non lo imita, che è una creatrice potente, tanto che la sua arte di maestro ne viene risvegliata, ne viene rinnovata, conosce un periodo di intensissima creatività. Loro si amano e si parlano attraverso la scultura. Lui scolpisce il celeberrimo bacio, credo che sia l'opera di Rodin più conosciuta in tutto il mondo. Questo bacio, tutto corpo, che esprime tutta la carnalità del loro incontro. Lei a sua volta gli risponde con Sakuntala, una scultura che sempre ritrae una coppia in amore, ma tutto anima, dove c'è l'amore celeste di due sposi nella beatitudine del Nirvana. Attraverso la scultura, poi, Camille maledice e supplica Rodin perché a un certo punto lui la lascia e le preferisce Rose, che è la sua vecchia amante, ignorante, devota, che vive per lui. Rose ha una grande qualità agli occhi di Rodin. Sa tenere le crete umide al punto giusto. È la guardiana della sua opera. E questo vale più dell'amore, vale più di tutto. Mentre sono in fuga d'amore Rodin e Camille, nel momento più acceso della passione, Rodin scrive a Rose: «Mi raccomando, non bagnare troppo e tasta con le dita». Però comunque l'abbandonerà e non ci sarà niente da fare. E allora Camille si vendica scolpendo l'età matura, una scultura impressionante, che raffigura un uomo, quest'uomo è Rodin, portato via da una megera orrenda, che è Rose, che è la morte. Mentre una ragazza in ginocchio, cioè lei, ed ha questa ragazza le proprie sembianze, cerca invano di trattenerlo. Quindi c'è quest'uomo portato via da una vecchia e pregato da una giovane invano. Ma Rodin non tornò mai indietro. Camille impazzì. E qui si inserì la figura demoniaca del terzetto, ovvero Paul Claudel, il fratello di Camille, che era sempre stato immensamente geloso di Rodin e si vendicò facendolo internare. La fece chiudere in manicomio, dove Camille visse ancora 30 anni. Rodin non andò mai a trovarla. Però, ecco, abbiamo parlato di un rapporto molto crudele da parte di lui, in cui lui la inganna, l'abbandona. Però ci sono anche storie con grande differenza d'età, dove invece è la ragazza a dare una grande fregatura a un tardone. Sono tutte sante? No. C'è anche la storia di un grande inganno, ed è il caso Gregoraci. Ora, per chi ci ascolterà fra 200 anni, trovando questa registrazione, quando la nostra civiltà sarà stata spazzata via dai rivolgimenti umani, dai cataclismi, quando la Torre Eiffel, San Pietro, i billionaire saranno polvere, e i pochi superstiti magari non ci capiranno, dobbiamo spiegare chi era Elisabetta Gregoraci. Elisabetta Gregoraci diventò famosa per uno scandalo che in questi tempi era un requisito, cioè nei tempi in cui viviamo adesso, era un requisito indispensabile per il curriculum. Infatti assurse la gloria della TV, poi si innamorò di un miliardario più vecchio di lei, lo sposò e vissero felici. È ricordata anche per il merito di non essersi mai seduta in Parlamento. Il rispetto appunto alla fregatura di cui parlavamo è questa, e si scopre da un'intervista che Elisabetta Gregoraci ha fatto a Confidenze, ed è uno shock. Ecco come passa il tempo la valletta che fece sparlare gli italiani da quando ha sposato Briatore. Rivelazioni, non sono calunnie, le ha dette lei. Cucina, legge il libro cuore, pensa sempre alle lasagne della mamma, sulle melanzane sott'olio non la batte nessuno, va sempre a messa e vuole uno stuolo di bambini. E alla domanda qual è l'ultima cosa che fa prima di dormire risponde: dico una preghiera. Povero Briatore. Ma questa è una fregatura inaudita. Ma allora era tutta una commedia. Cioè lui in buona fede ha sposato la ragazza dello scandalo, l'icona piccante che gli assicurava i giornali di gossip tutto l'anno, e mo si ritrova con una suora perbenista fino all'insania. Perché dopo aver confessato di sognare un figlio, teme che le sia sfuggito un concetto un po' troppo hard e si affretta ad aggiungere: sogno un figlio. Come tutte le donne sposate, tante volte si potesse pensare che una donna sposata, non sposata, desidera un figlio. No, via, è troppo. A tanto non ci sarebbe arrivata almeno la Pivetti ai tempi, qualcuno si ricorderà, in cui diceva di parlare con l'angelo custode, ma lui non le ha mai risposto. Ora io vorrei vedere la faccia di Briatore quando al billionaire risuonano le novene. Le ragazze fanno qualsiasi cosa pur di acchiappare un marito. Lei, per sedurlo, si è finta un demonietto spregiudicato e appena sposato, zac, ha tirato fuori il rosario. Vecchi in guardia. La guardiana del faro. Sono arrivati 3 messaggi nella bottiglia. Numero 1. Questa è una donna che scrive: credo solo nell'infedeltà assoluta. Chiunque può diventare il mio amante, chiunque la tua. Per questo ti amerò sull'orlo del precipizio, la posizione più comoda. Sempre una donna, ho scoperto che lui ne aveva altre due. Ci portava tutte nello stesso posto. Ora ci siamo alleate, perché siamo arrabbiate. Ma fra poco saremo di nuovo rivali. Che fare? O entro nella mischia con violenza, o ne esco, in silenzio, come un angelo. Quest'ultima soluzione mi sembra molto elegante. E questa è una moglie. Mio marito vuole sempre fare l'amore con me e con un'altra donna, ma solo per il suo piacere. Lui si considera il centro erotico della faccenda, un idolo ai piedi del quale vanno ammucchiate le suggestioni che io raccolgo. Ma io mi sono innamorata della ragazza e lei di me. Quest'orgia di sesso incominciava a pesarmi. Lei è l'occasione di tornare all'amore. Una sola cosa mi manca ancora, che lui lo sappia, per vederlo finalmente cadere dal trono. Si credeva un mago del sesso ed è un cornuto qualunque. Le corna più suggestive, più divertenti sono quelle filtrate dal ricordo, sono quelle che così che sfumano un po' nei racconti dell'infanzia, cose che non avevamo visto. Io stavo in questo paese umbro dove mi dividevo da bambina tra la torre, che era la casa di Bigotti, cupissima su questo torrente, e la casa rossa, molto allegra, che era di miei nonni toscani, anarchici, amanti della musica, molto spensierati, e erano molto amanti anche del vino. A una svolta, dopo il viale, c'era una casa identica alla casa rossa, che era la casa dove abitavano i miei nonni. C'era questa casa identica, soltanto un pochino più smorta e un pochino più piccola. C'era lo stesso cancello, le stesse finestre, appena appena un po' più ridotta. L'aveva fatto costruire il nonno Quintilio per la sua amante, che si chiamava La Pelina. Aveva adoperato lo stesso materiale e lo stesso architetto, per economia, come faceva economia del suo amore, per tenere due donne senza far torto a nessuna. Ma aveva rimpicciolito le dimensioni, perché nel suo cuore La Pelina aveva uno spazio più esiguo. La Pelina, a casa sua, ricamava sulla porta, snella, guercia di un occhio, però da quell'unico lanciava delle frecce di seduzione cui era impossibile resistere. Quando erano arrivati dalla Toscana, all'inizio, da giovani, i nonni Quintilio e Isadora abitavano al Piazzone, e al Piazzone avevano uno stanzone come casa. Il giovedì ricevevano e, per dare la festa da ballo, smontavano i letti e poi ballavano tutti. A metà notte, tutti un po' esaltati dal vino, spaccavano le sedie, il suonatore di chitarra si rifugiava in un posticino per non farsi rompere lo strumento, e una volta ci fu uno scandalo, perché c'era il povero Dedo, che tornava dal soldato e sapeva le novità, si mise a ballare con La Pelina, con la mossa, e le insegnò la mossa alla Pelina. Il nonno allora fu preso da una crisi di gelosia e li cacciò via. E dato che gli invitati dissero che aveva fatto bene a cacciarlo via, cacciò via anche loro. Nella confusione, cacciò via pure la nonna. Cacciò la nonna, chiuse la porta e non se ne accorse. La nonna bussò alla porta tutta la notte, fino all'alba, prima che lui, ubriaco com'era, trovasse la forza e la coscienza di aprirle. Quando finalmente le aprì, il nonno cadde in ginocchio davanti a lei, dichiarò che era l'unica donna degna del suo amore. Come risposta, nonna Isadora gli diede un pugno in faccia e gli ruppe un dente. Il nonno se l'era fatto rimettere d'oro e faceva sempre in modo di ridere per farlo vedere quando raccontava questa storia. Я вновь повстречался с надеждой, приятная встреча. Она проживает все там же, то я был далече. Все тоже на ней. 21 anni fa morì Alberto Moravia. Era l'ultimo elegante giovinotto di un tempo che fu, l'ultimo insofferente vero, l'ultimo amante. Moravia è stato un uomo fortunato. È morto innamorato a 82 anni. Ascese al cielo nel pieno dei desideri e sfuggì alla camicia di forza della biografia, come quando Pinocchio scappa dai gendarmi. Evase un quarto d'ora prima che gli venisse consegnata la stampa del libro sulla sua vita, facendo al biografo, che era Lionel Kahn, un dispetto e un regalo, come era suo solito. Dopo la sua morte, gli attacchi della stampa contro Carmen furono terribili e furono lo scempio rituale da parte della tribù. Perché quando il re muore, la sua donna è vilipesa, usurpatrice o guardiana. L'amore non è ammesso. Moravia morì all'improvviso e Carmen era in viaggio. I moralisti contenti. Lui moriva e lei stava in giro. Ma questo era compreso nella durezza del patto, come dice il Cantico dei Cantici. Perché l'amore è duro, come la morte. 80 anni Moravia sposò Carmen e si era permesso il grande lusso letterario, l'amore senza possesso. L'amore che gli altri non capiranno, che scavalca il ridicolo, l'amore con una donna che tornerà sempre perché lui l'aspetta. Per questo Moravia amava Carmen, perché partiva, perché se lui avesse avuto bisogno di un'infermiera se la sarebbe presa, ma una zingara come lui aveva voluto per moglie. Tutti noi sappiamo, sia quando siamo innamorati che quando ascoltiamo gli altri, che ascoltare un innamorato è veramente noioso. Perché se non hai la risolutezza di sottrarti, sei fritto. Perché comincia una litania sempre uguale che non ha fine. E invece Moravia era il più astuto conversatore d'amore che mai sia nato. Perché era l'unico innamorato che quando Carmen non c'era riusciva a parlare di lei e ti teneva inchiodato. Ora, vecchio, tradito, ma c'è qualcosa di più patetico? E lì veniva fuori il grande narratore. Non ho mai molto amato Moravia scrittore, ma lì era, come conversatore d'amore, era insuperabile. Perché Moravia di Carmen faceva un capolavoro ambiguo dove lei è una creatura che vive al buio, mangiando solo vasi di miele e sognando il crimine. Molto più interessante della Carmen dei rotocalchi, dove appariva attaccata solo alla fama e ai soldi, autoritratto di una stampa che non ha intelletto d'amore. Moravia, quando lei non c'era, la introduceva nella conversazione di soppiatto. E poi diceva tutto, ma non rivelava niente. Faceva proprio la radiografia del loro amore, era lì, visibile a tutti. Però niente altro trapelava se non la gioia selvaggia che Carmen fosse sua moglie. Se era geloso, ma certo, moltissimo, più acerbamente che in gioventù, ma era il suo gioco. Il suo rapporto con Carmen erano le sue montagne russe di vecchio senza paracadute, di questo borghese ragazzo ribelle mai domato dalle pompe. Moravia andava dai potenti, ma non era amico dei potenti. Andava dai salotti, ma andava dappertutto, perché aveva una mobilità mercuriale. Era un arrabbiato di lusso. Un po' si arrabbiava sul serio, un po' faceva finta. In fondo non gli importava niente di nessuno. Per cinismo, per estasi, per saggezza. E per avercela fatta con una gamba tesa tutta la vita, con questa gamba malata che gli dava fastidio, ma non gli ha mai impedito di saltare le montagne. E poi tutti si chiedono, ma, o almeno si chiedevano molto allora, ma Carmen lo amava? Se non fosse Moravia lo amerebbe, ma no, perché sarebbe stato un altro. Cioè, non è che lo amasse perché era Moravia, ma perché era Moravia, perché era il più spiritoso, era il più sincero, era il più bello. Perché se gli offrivi il braccio, la sua stretta era più forte della tua, per come era attaccato alla coppa e per come era sensibile ai dispetti. Lo poteva fare soffrire chiunque per un istante. E lui con grande leggerezza di bambino dimenticava. Però ricordava sempre, ma scrollava le spalle perché alla fine non credeva nell'uomo. Certo che Carmen lo amava. Moravia era il contrario dello snob. Era un uomo elegante. Lui aveva questa faccia bella, da aquila, da aspra aquila, ma faceva anche tenerezza, perché era sordo e la sua sordità aiutava ad abbandonarsi alla gioia animale perché metteva lui questo maleducato universale, eppure così garbato, ma l'avresti baciato. Insomma, in molti invidiavamo Carmen, che era rapita da questo stregone complice dei suoi capricci, di quelli che lei sapeva di avere e di quelli che avrebbe scoperto con lui. Lui era un testardo entusiasta. E Moravia, dopo la morte, è mancato amaramente a Carmen, perché lui era la fonte della sua audacia e i suoi gesti di libertà erano dedicati a lui. Fu un grande amore e l'ostilità degli altri ne è la prova. E allora perché, dicono, se ne andava sempre in giro con altri uomini? Ma perché era il loro gioco, perché delle fughe di Carmen Moravia soffriva e andava fiero. Lei andava in giro anche per lui. Avido di vita com'era, Carmen lo raddoppiava. Era la sua ricchezza, era la certezza che con lei non si sarebbe mai fermato. Carmen aveva la genialità dell'assenza. А разве ты нам обещала чертоги золотые? Мы сами себе их рисуем, пока молодые. E tutto questo è vero della loro storia d'amore. E poi però, dopo la morte di Moravia, viene fuori il colpo di scena. Si viene a scoprire che Moravia tradiva Carmen. Ma la tradiva davvero, non come si dice la scappatella. Era una storia fissa. Si era fidanzato con un olandese di 25 anni, che si chiamava Rosita Stenbeck. E ad Rosita, in assenza di Carmen, lui dedicava tempo e intensità come se fosse l'unica, perché non è che stava solo a parlare di Carmen con gli amici. No, no. Ora, si può immaginare una donna di 82 anni che tradisce il marito di 30 con uno di 25 pazzo di lei? Ma nemmeno fosse Dante Alighieri. E non sono pettegolezzi, perché l'amante Rosita Stenbeck, la fidanzata Rosita Stenbeck, ci ha scritto un libro che si chiama L'ultima donna, pubblicato da Marsilio. E così, mentre gli amici lo compativano, in parte pelosamente, Dario Bellezza, la sua amica Antonella Mendola, che lo adoravano, ma c'era questo gioco a farlo soffrire, lui intanto, zitto zitto, si era fidanzato con Rosita e la prendeva a sculacciate. Perché lei nel libro ha vuotato il sacco, ha raccontato tutto. Il libro di Rosita Stenbeck sono come polaroid segrete scattate dalla complice, dove il bambino è colto nel pieno del gioco. E questa è una conversazione veramente avvenuta tra loro. Moravia dice: «Ti picchio?» E lei: «Ma non ti ho fatto niente». E lui: «Proprio per questo, voltati». Mi chiese di mettermi in ginocchio col busto piegato sul divano. Con gesto rapido mi sollevò la gonna, abbassò le mutandine e mi affibbiò due schiaffoni a mano aperta. «Aia! Fa male?» «Sì», dice lei. «Hai le mani di ferro». Lui rise, soddisfatto. «Avvicinati alla finestra. Vediamo se ti ho lasciato il segno». Mi portò in piena luce, io guardai il Tevere e lui le mie chiappe. «Ripeti con me. Ti amo perché mi fai male. Ti amo perché mi fai male». Mi accompagnò a casa, invendo contro un'altra macchina. «Idiota, stronzo!» «Calmati, Alberto, ti fa male». E lui: «Dentro di me sono calmissimo, perché so che la vita non vale un fico secco». Quando non la sculacciava, Moravia le parlava male di Carmen. «Lei sta con me», o questo lo riferisce Rosita, tutto questo può essere anche invenzione, non lo so. «Lei sta con me perché sono potente. Per lei il prossimo non esiste». E dice Rosita: «E tu nemmeno?» «No, non mi faccio illusioni. È una donna dura. Ma questo la rende originale. E io amo l'originalità. Un cane che morde, che morde. Non ci può fare niente». Un giorno lui si lamenta dei dolori alla gamba, e Lina, che nel romanzo si chiama Lina, cioè Carmen, gli dice: «Se fossi in te, preferirei suicidarmi». Grande personaggio. Accusando Carmen, Rosita la scagiona e completa ciò che Moravia aveva lasciato in sospeso, perché nella sua biografia scrive di ciò, del rapporto con Carmen, parleranno altri. Così nel finale della sua biografia, con la quale il frivolo Il Can ha fatto un dono profondo alla letteratura italiana, raccogliendo il Moravia verbale, secondo me il più grande. La guardiana del faro. Qui capitaneria di porto. Come richiesto, Carmen Iera Moravia è in collegamento. Barbara Alberti è autorizzata a parlarci. Ciao. Ciao Carmen. Come stai? Buon anno. Anche a te, mia cara. Io sono a Finisterre. So che tu conosci questo posto. Sì, lo conosco. Sono posti molto poco mediterranei, freddi, ecco, freddi, però danno un'idea di partenze definitive. Sì, infatti mi sembra, dato che non ci parliamo da molto tempo, mi sembra il posto che ha la giusta solennità per potermi rivolgere a te. Beh, sì, abbastanza solenne, molto. Allora, senti, io vorrei fare un gioco. Ti leggo un pezzetto che ho scritto io su di te anni fa, in questo libro che si chiamava La donna sì, è un animale stravagante davvero, e poi il pezzo di uno scrittore maschio. Allora, la mia parte era questa. Carmen, tratto dal libro La donna è un animale stravagante davvero. Я вновь повстречался с надеждой, приятная встреча. Она проживает все там же, то я был далече. Carmen è affettuosa come una bestiola lasciata. E Bambi senza la madre. È un sogno di Buñuel fatto di seta e malinconico. Più della bellezza mi commuove la sua fisicità, la luce da oro sotterraneo di chi fa davvero all'amore. Alla fine, quando ci incontriamo, diciamo sempre ci vediamo, ma poi non ci vediamo mai. Che ci vediamo a fare? Con lei mi dispiace troppo non essere un maschio. Carmen è una mia piccola sorella lontana, è quasi un nodo alla gola, è il rimorso di non poter fare nulla per la sua noia. Per lei il maschio è tutto, nel suo niente. e il suo pretesto, la sua scienza. I suoi ritratti maschili nei libri Uomini e Sarabanda sono ammirevoli. Dopo la morte, Moravia le ha guidato la mano, che è sempre più sobria. Come donna la saluto dal treno con una sciarpa che la sfiora, passando. Disse una sera Moravia, per tagliar corto alle malignità di Antonella Mendola, che lo amava d'amore geloso e lo sfotteva per quel matrimonio. E poi Carmen è bella, e disse molte L. Le L come due vele rotonde, e lui partiva. Parlando di Carmen, Moravia era infallibilmente fuggitivo e poeta. E questa è la mia parte. E poi ti leggo Buttafuoco. Buttafuoco, nel libro Fimmini, pubblicato da Mondadori, scrive di Carmen. Ti nasce sestra, ми твої торопливі судді, нам випало щастя, де скрилося з глаз. L'ultima epifania della Sinisteritas, nella declinazione al femminile, si ebbe nella figura di una ragazza dalle labbra color ciclamino, Carmen Iera. Era una bionda dai capelli svagati, lunghi e fatti di fili, che guardava e non guardava da dietro occhialoni scuri. Magra, scricciolo, scudiscio, che sorrideva e non sorrideva. Era la ragazza che sbucava, arrivava e scombinava. Un'arma d'amore fu lei nel mondo altoborghese degli anni Ottanta del secolo scorso. E tanto scandalo portò ai benpensanti della sinistra romana, rovinando le fondamenta del palazzo di Botteghe Oscure. Fu la nemesi di Nilde Iotti, la presidente della Camera, mito d'amore per via della sua unione con Palmiro Togliatti. Ma Carmen Iera, vedova Moravia, fu gatta, quella che quando cammina si trascina i topi. E maestra indiscussa del dare buca, del gattamortismo, del negarsi, dell'arrivare e del non arrivare, di cui apparecchiò le più spericolate varianti, comprese quelle della politica. È signora di cui dire solo bene. Sfasciava il respiro agli uomini senza neppure il bisogno di mostrar merce né siliconi. In ogni accenno di ruga, nell'imperativo della sua discrezione, distillò erotismo e vampe. Abbondantemente benestante, per sopportare i suoi stessi capricci, si faceva strappare dai capezzoli tanti baci, quanti le altre non ne mettevano in conto neppure la possibilità, essendo diventato poco chic, per l'umanesimo dei signori, il guardare le donne e amarle. Pare che non abbia mai messo piede in un supermercato e nel suo frigorifero, ancora oggi, tiene due bottiglie di Veuve Clicquot e due mele. È bella questa dichiarazione d'amore che ti arriva per interposta persona, perché tu non l'hai letta questo di Buttafuoco, no? No, mi aveva letto un pezzetto, ecco. Io avevo risposto molto male dicendo che detestavo, che in realtà io ero più un cane che un gatto, ecco. Ma in realtà la dichiarazione d'amore è la tua. Sì, ma mi identifico più in quello che dici tu e in quello che dice Pietrangelo, che poi insomma è così barocco anche. Ma vedi che bello, ti abbiamo eletto maestra e tu ci dai i voti e io sono promossa. Grazie Carmen. Ma era una scusa per farti parlare di te, che stai facendo? Cosa faccio? Faccio quello che ho sempre fatto, cioè cammino, leggo, scrivo, vedo pochissime persone ovunque mi trovi, cioè cambio paese ma sempre la stessa cosa. Faccio sempre lo stesso, da sempre, sono una errante. Ti rincorri da sola? Per cui non riesco, detesto il passato, non ho nostalgia di nulla. E quindi vivo e mi dispero nel momento presente. Io ho un rapporto con il tempo molto diverso da quello che hanno gli altri. Per me il tempo, io ho sempre troppo tempo. Quindi non ho un problema che non è di questo secolo, insomma non lo so, tutti quanti sono impegnatissimi e non hanno tempo. Io ho fatto della mia vita il vuoto sia nello spazio che nel tempo. Io quindi il tempo di disperarmi ininterrottamente, definitivamente, con quella noia di cui tu parlavi. Cioè, ho fatto di tutto per non dipendere, non avere dipendenza, non avere famiglie, non avere, e quindi penso, e quindi pensando mi dispero. Scrivendo, ormai scrivono, non dico cani e porci, ma insomma, scrivono tutti, per cui cerco di scrivere il meno possibile. Io invece che non sono una signora raffinata come te, che sono una contadina umbra, devo dire, se scrivo fino a che voglio scrivere, mi dà sempre una gioia così infantile questa cosa. No, qui. Non a me. Soprattutto in un mondo in cui tutti raccontano tutto di tutto è assolutamente privo di interesse. Quindi io, anzi, quelle poche righe che scrivo le conservo, cioè, insomma, dico, cerco di non darle o di darle a pochissime persone. Beh, un po' controcorrente, mio malgrado. Quindi è questo privilegio dell'assenza, questa dannazione quindi dell'assenza. Quindi dovrei, beh, l'assenza riempie il mio tempo. Comunque, no, dovrei essere io sul faro, cioè fare uno scambio. Ah, ma tu ci sei comunque, tu sei il faro, così. Questo è vero. Non vorrei essere così compresa nella tua noia, ma c'è qualcosa che ti piace molto, che ti fa sentire quasi inesistente? Ah, ma io sono quasi sempre inesistente. Ricordi gli uomini della tua vita, così quando sei sola? Ma io non, appunto, sono tanti, per cui non voglio... sono tanti e molti privi di interesse, quindi per me esiste solo il presente, quindi né vedo il futuro né guardo il passato. Quindi sei proprio la creatura misteriosa che raccontava Moravia, non... Non so cosa vi raccontava. Qui capitaneria di porto, interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti. Realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti, a cura di Gloria Guerrera.